sapore del dolce che hai. Vorresti non finisse mai, quando porta un senso, ma tu in fondo sei solo ce l'hai. Pensa a quel falso sorriso che dai, di quello vero tu non sai. Quando porta un senso, ma tu in fondo un senso non ce l'hai. Provateci a seguire una linea retta chimica, la senti espandersi nei tuoi neuroni, e forse quel sentimento vago di immaginazione ti ritrovate già oltre. E capisci di essere statico all'interno del tuo corpo. Sei stupido, contratto, opaco, nebuloso e protratto, e questo è forse solo il tuo essere stato. Fatto senso! Fatto senso!